sulle mie rime ci sono gli asterischi. Leggi le note in basso per sapere cosa rischi. Su questa pelle d'inghiostro se n'è consumato, racconta la mia storia da quando sono nato. Su questi fogli d'inghiostro non ho versato rime più asterischi, è un contratto d'amicizia depositato. Monotematico può anche darsi, non posso raccontarvi le storielle come fanno gli altri, di aver rischiato grosso e di essermi ammalato, aver visto la luce in fondo al tunnel, sono resuscitato. Potrei inventarmi di aver visto alieni, ma preferisco dire il vero, parlo dei miei veleni che colleziono sul mio corpo, per te sono tatuaggi, per mio modo di raccontarmi, sono messaggi, sono cover per nascondere i tuoi sfregi, i miei difetti corrispondono ai tuoi pregi, a te non vanno bene, ma i tuoi non li correggi, le note in basso di questo contratto proprio non le leggi. Sulle mie rime ci sono gli asterischi, leggi le note in basso per sapere cosa rischi. Io vado avanti, non faccio retromarcia, ho 99 difetti e la coda marcia. Vorreste condannarmi per una canna, per colpa delle donne ho già scontato la mia condanna, perdendo più di una scommessa, di rifarmi una vita seria per esempio con una commessa. In gabbia ho appuntato ed affinato queste rime, ho iniziato a scriverle per te, ricordo le prime. Eri l'unica a togliermi la noia, ora scrivo che t'ho scordata perché sei una troia. Ti ho conosciuta che eri una bambina, ti ho lasciata adultera che ti atteggi da sgualdrina. Spacciavi sogni per la mia autostima, disindossicarmi per ritornare alla vita di prima. Quando mi ingolpavi di ogni tua scelta, ma in quella storia tu eri l'alfa, io soltanto il delta. Oggi vado avanti, non perdono più, io non ho colpe, l'ho fatto già per anni, ne ho perdonate troppe. Sulle mie rime ci sono gli asterischi, leggi le note in basso per sapere cosa rischi. È un contratto che tutela il patrimonio, con diritti e doveri come nel matrimonio. La tomba dell'amore, e chi ci ricasca è solo uno zombie ucciso da un errore. Io vado avanti, non faccio retromarcia, ho 99 difetti e la coda marcia. Sono così eccitato di vederti che piango lacrime di sperma. Non ti abbraccio, avresti solo una conferma. Nella tua università, facoltà di tradimento, ti sei specializzata, master in sbattimento. Mentre rompi coglione a lui, se vuole l'iPhone, lo porti a spasso col guinzaglio di Louis Vuitton. Per negozi di scarpe codiano le donne, tacco 12 sotto vertiginose minigonne. E ti credi la fine del mondo, manco ti chiamassi Maya. Vivi sul tetto del mondo, una maiale in cima all'Himalaya. Certo io sono nessuno per giudicarti, se cambi uomini come DJ cambia dischi e parti. Sarò anche uno di larghe vedute, ma porti addosso la scritta nuoce gravemente alla salute. Troppo diretto, scusa, forse le dei tuoi diritti, era meglio a letto quando stavamo zitti. Sulle mie rime ci sono gli asterischi, leggi le note in basso per sapere cosa rischi. È un contratto che tutela il patrimonio, con diritti e doveri come nel matrimonio. La tomba dell'amore, e chi ci ricasca è solo uno zombie ucciso da un errore. Io vado avanti, non faccio retromarcia, ho 99 difetti e la coda marcia.